Eccoci, ci senti? Sì, vi sento bene. C'è un po' di confusione, qua abbiamo molta musica, molte bande a rallegrare un po' questa giornata. Beati voi, Evviva! beati voi. Grazie. Allora, raccontaci un pochino intanto di qual è la situazione lì, di cos'è la questione del parco di Aguzzano e i casali e tutto, insomma, la situazione lì a Rebibbia, per poi arrivare chiaramente alla giornata di oggi. Allora, sì, il parco di Aguzzano è un'area verde importantissima, diciamo, del quadrante est di Roma, tra i quartieri di Rebibbia, San Basilio, vicino al Tufello e a Monte Sacro. E è una realtà che tra l'altro è stata veramente strappata alla speculazione, perché qua doveva sorgere un complesso di case e invece, grazie alle mobilitazioni dei cittadini della zona, si è evitato che venisse lottizzato l'intero parco e nell'89 si è costituito questo parco regionale, che è anche una riserva naturale e conserva un po' di quello che era l'agro-romano di, insomma, un tempo. E nuovamente sotto attacco anche in questi giorni, perché la nuova giunta 5 Stelle del quarto municipio, ha avuto la brillante idea di cercare di mettere un bando su uno dei casali storici di questo parco, il Casale Alba 1, che è un casale degli anni 20. Il bando prevede intanto che venga assegnato a un privato e in particolare a una pizzeria, mentre la destinazione d'uso prevista dal piano d'assetto per questo casale, che è sempre una riserva naturale, sarebbe socio-culturale, quindi con la pizza non ci azzecca niente Certo. e, insomma, non vogliamo vedere assolutamente un'altra area verde data in mano ai privati per non si sa quale motivo. Approfitto Per il fondamentalmente. prezzo, è chiaro, sì. Il problema poi è diventato anche un problema nostro, nel senso che noi gestiamo un casale che si chiama Casale Alba 2, che fa attività completamente gratuite per il quartiere. E dal momento che abbiamo iniziato a protestare contro la pizzeria, sono venuti a farci visita più volte in assetto minaccioso sia le forze dell'ordine che la Digos che la Polizia Municipale, minacciandoci, prendendo documenti, insomma, le solite pratiche che conosciamo bene. Per cui oggi siamo qui per dire no, prima di tutto alla pizzeria e alle speculazioni nel verde pubblico, e poi per ribadire che non ci lasceremo intimorire, le identificazioni e le minacce della polizia non ci fermeranno, e ribadiamo anche che il lavoro che facciamo nel quartiere è una risorsa fondamentale per chi ci abita. E certo, ma e come sta andando la giornata di oggi? Quindi, come ha risposto anche il quartiere? Insomma, che composizione c'è? La composizione è molto variegata, c'è un po' di tutto il quartiere, prima di tutto, e una risposta veramente molto bella che non ci aspettavamo neanche. Sono arrivati addirittura gli scout vestiti da scout, quindi abbiamo intercettato tutti Evviva! i livelli, dai compagni alle scuole, agli scout appunto, al pensionato, al centro anziani, quindi è veramente una bella giornata. Bene, benissimo. Guarda, visto poi anche che ci sono un milione di altre giornate sparse per mezza Italia, notevole. Sì, infatti diciamo, diamo il sostegno anche a chi oggi è andato a Verona, è andato in giro a Torino, e siamo con loro nel cuore, diciamo. E certo, ma evidentemente c'è un filo conduttore in tutte queste piazze, si nota abbastanza. Va bene, Assolutamente. ti ringrazio moltissimo e niente, alla prossima e intanto buona lotta. Grazie, un abbraccio a tutti e a tutti. Ciao, un abbraccio anche a Ciao, voi, ciao. ciao.